Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi va a incontrare una mostra al Museo del Fumetto WoW di Milano, dove si presenta questa esposizione Fumetto, i comics made in Italy, iniziata già il 6 novembre, andrà avanti fino al 27 febbraio, ma sembra proprio che ci sia una proroga a causa limitazioni da Covid, quindi per rendere più disponibile la visita a una mostra che presenta tutti gli aspetti del fumetto italiano, una grande carrellata dall'inizio dell'Ottocento fino alla contemporaneità, raffigurata da un bellissimo manifesto a cura di Luca Salvagno, che rappresenta l'Italia turrita, intenta a leggere pile di albi circondata dai più famosi personaggi del fumetto italiano. Noi avremo una guida d'eccezione per questa mostra, perché Morena Moretti ha interpellato il direttore del Museo WoW, Luigi Bona, che ci prende per mano e ci conduce all'interno dei vari settori di questa mostra. Una mostra, peraltro, sentiremo, che nasce grazie anche a un inedito, perché finora non era mai successo, il finanziamento del Ministero della Cultura per una mostra di fumetti, solitamente considerata materia di serie B e quindi indegna di qualsiasi finanziamento. Invece, finalmente, questo finanziamento ha dato vita anche alla possibilità di mettere insieme questa eccellente esposizione. Dopo uno stacchetto musicale, l'intervista di Morena Moretti al direttore del Museo WoW di Milano, Luigi Bona. Abbiamo vinto un avviso pubblico, come si chiama normalmente, della Direzione Generale della Creatività Contemporanea, che è il Ministero della Cultura. Proprio un bando promozione fumetto 2021. È la prima volta che il Ministero Italiano della Cultura fa un bando sul fumetto, mirato soltanto sul fumetto. E questa è una cosa che fa molto piacere. È importante perché forse viene riconosciuto finalmente questo media dopo ormai decenni e decenni come evidentemente un mezzo di comunicazione significativo e anche ormai ha una storia, una rilevanza innegabile. Beh, questo è importante, sì. Certo, i nostri cugini francesi, belgi, eccetera, queste cose le fanno ormai da infiniti anni, addirittura dagli anni 40, fine anni 40, da dopo la guerra. Ci abbiamo messo un po' di più, ma speriamo che finalmente sia una strada che si seguirà anche in futuro, insomma. Quindi il progetto, voi avete presentato il progetto che è? Il progetto è una mostra con tutto un intorno, poi, perché ci sono incontri, ci sono laboratori, eccetera. E la mostra è Fumetto, il titolo è proprio quello, i comics made in Italy, cioè si parla di manga, si parla di comics, di bande dessinée, di un sacco di cose, ma il fumetto, cioè il fumetto italiano, non è una cosa che vive soltanto di roba straniera o altro, ma abbiamo un nostro patrimonio antico anche, molto molto interessante e prezioso e importantissimo anche a livello internazionale, di cui essere orgogliosi. Quindi è una mostra un po' comics pride in qualche modo, proprio perché si rivendica insomma una originalità italiana. Assolutamente, assolutamente, ha un'importanza internazionale. La mostra parte proprio dalle origini un po' del fumetto italiano, quindi dall'Ottocento, e arriva fino ai nostri giorni e anzi fa vedere anche delle cose nuovissime, delle proposte innovative attuali. Una mostra molto ambiziosa, abbiamo messo quindi la crema, le punte dell'iceberg, del grande patrimonio italiano, però è una bella mostra, ci ha soddisfatto anche farla, abbiamo scoperto anche noi delle cose che non pensavamo di poter esporre. E avete attinto dalle i vostri archivi di materiale che avevate, avete anche avvalsi invece di tavole richieste ad autori? Un po' tutto, diciamo che una parte abbastanza consistente, soprattutto di materiale antico, diciamo di materiale nostro, però abbiamo chiesto sia a collezionisti, amici collezionisti che da tempo ormai hanno dei rapporti ottimi con noi, e ad autori. E agli autori abbiamo chiesto, o ai eredi di autori, e meglio, gli autori non ci sono più, abbiamo chiesto proprio le cose più rappresentative in qualche modo. Di De Luca, per esempio, un grande autore del Vittorioso, 40 anni di pubblicazioni italiane splendide, abbiamo chiesto una doppia tavola bellissima dello Shakespeare a fumetti, del Romeo e Giulietta, ed è una cosa fantastica da guardare, una costruzione scenografica veramente esemplare che un po' tutti conosciamo per aver letto, per averla vista riprodotta, perché è ristampata, ma vedere gli originali è qualcosa di incredibile. E così di tutto, insomma, da Pratt piuttosto che Scozzari, cioè veramente di 120-130 autori abbiamo fuori le cose più meravigliose. Quindi si presenta anche come una mostra d'arte. Sì, è diventata veramente una mostra d'arte perché tutto il materiale esposto sono tutti originali e c'è a corredo anche un insieme di pubblicazioni che però abbiamo messo per motivi anche di spazio, perché diventava una cosa enorme, e anche degli originali abbiamo messo soltanto poche cose, ecco, una, due, tre tavole al massimo per ogni autore, e invece il pubblicato abbiamo fatto una specie di effetto edicola in qualche modo. Abbiamo messo in bacheche, ma anche in spazi molto grandi, una quantità di materiali scelti, selezionati in un certo modo, per dare l'idea della ricchezza incredibile di formati, di colori, di qualità grafiche, eccetera, anche dei prodotti editoriali. E poi dei libri e poi di tutto il resto. E questo è un effetto che vedo che è piaciuto molto, anche perché i collezionisti e gli appassionati poi scoprono che, ah, ma quello è il numero uno del Topolino di Petto, quello è il numero uno del Vittorioso, ah, ma quello è il numero uno di Grand Hotel. Quindi trovano poi insieme apparentemente ammonticchiato di materiale, messo per un certo modo, e beh, è splendido, cioè dà proprio il senso di una ricchezza fantastica che è il fumetto italiano, che è stato e che prova ancora essere fumetto italiano. Quindi avete queste edicole dove ci sono, diciamo, i giornalini illustrati e probabilmente quelli più vecchi magari. Sì, certamente. Abbiamo il primo numero del Novellino del 1898, abbiamo, non so, il Pupazzetto di Gandolin 1886, abbiamo il primo numero del Corriere dei Piccoli, abbiamo cose di questo genere, insomma, quindi andiamo molto indietro. Ma abbiamo soprattutto i giornali illustrati da cui ha cominciato il pupazzettismo, cioè il corredare anche i giornali con illustrazioni, con immagini, che erano rivolte a un pubblico adulto inizialmente. Oppure le pubblicazioni per bambini, cioè abbiamo quelle del, appunto, del fine 800, che non è la domenica, ovviamente la prima annata, ovviamente le prime cose, via via attraverso poi lo sviluppo dei Corrieri Piccoli in poi, il Corrierino e tutto il resto, passando attraverso il periodo ahimè triste del fascismo, ma comunque viene vedere anche, non so, la Piccola Italiana e Balilla, però anche le pubblicazioni Nerbini piuttosto che quelle di Paperino Giornale, che ospitavano materiale italiano straordinario. Abbiamo le tavole originali di Walter Molino, di Scolari, insomma, cose stupende. E molto materiale mai esposto prima, quindi delle scoperte anche notevoli. Scoperte anche per voi, nonostante voi gestite questo meraviglioso museo. Ho conosciuto un signore che ha fatto il fumetto più bello del mondo, è l'autore che amo di più. E dopo una cena mi ha fatto un disegno che sulla tovaglia si disegna meglio. Luca Comics and Games, Luca Comics and Games, c'è tutto il mio mondo a Luca Comics and Games. Luca Comics and Games, Luca Comics and Games, domani ritorno a Luca Comics and Games, a Luca Comics. Ci ho comprato un robotto di ferro pesante col maglio rotante, che bello che adesso ce l'ho, ma non lo trasformo se no poi si sciupa, ho speso un casino ma sono felice. Ho trovato di tutto, pelusci, magliette, quel gioco di carte credevo non piacesse più. Le spade, gli anelli, orecchie, mantelli, cartoni animati, eserciti colorati. Luca Comics and Games, Luca Comics and Games, c'è tutto il mio mondo a Luca Comics and Games. Luca Comics and Games, Luca Comics and Games, domani ritorno a Luca. Avete anche sperimentato incontri con le scuole? Beh, con molti limiti, perché le scuole in questo periodo non riescono a uscire, non possono uscire. Qualcuna con qualche difficoltà è riuscita a fare qualche presenza e quindi abbiamo avuto anche quelle. Con laboratori privati, sì. Sono venute per esempio molte scuole di fumetto, per esempio, perché evidentemente qui dentro vedono cose che noi stessi non abbiamo mai visto insieme, ma nessun autore. Qui è venuto, non so, Angelo Stano, è venuto Blasco Pisapia, cioè autori importanti di oggi, e sono rimasti affascinati a vedere le meraviglie che c'erano fuori. Quindi potremmo anche dire che forse è una prima mostra, no, esaustiva no, perché mi sarebbe esagerato, esaustiva no, perché il materiale è tantissimo, ma sicuramente si può avere un'idea molto forte di cosa è stata appunto il fumetto in Italia, il percorso. Sì. E quindi è davvero molto interessante, forse anche la prima fatta in questo modo, perché con le tavole originali io leggevo che ne avete, o me lo dicevi tu, che ne avete almeno un centinaio. Sì, sono 120 autori, quindi figuriamoci. Sì. No, assolutamente tante, ma sono appunto scelte e selezionate. Purtroppo molto materiale non ha trovato spazio perché non era possibile mettere fuori tutto. Però per esempio sono tutte esposte, e questa è una novità anche per chi conosce il nostro museo, in cornici museali, cioè con vetri museali, quindi con antiriflesso splendidamente, cioè sembra di vederli senza vetro in mezzo. Sì, un'ottima cura. È una bella cosa, sì. Per quello che riguarda invece la parte più vicina a noi, la contemporaneità, quella che chiamiamo graphic novel, avete anche qui posizioni di tavole? Certo, assolutamente. Mm-hmm. Sì, perché attraversiamo tutta la storia, quindi dal dopoguerra, ovviamente c'è il Pioniere, ovviamente ci sono i giornalini e tutte le altre pubblicazioni, si arriva fino ai giorni nostri. E quindi abbiamo, ma per esempio anche di prima ci davo Scozzari, avevo telefonato chiedendogli qualcosa per mettere degli originali accanto a quello di Pazienza, accanto a quello di Mattioli, certo, eccetera, anche il suo, per ricordare la rivista Frigidaire, eccetera. E giustamente mi ha detto, sì, però io non ho fatto solo quelle cose, e ha ragione, ha fatto ben altro dopo e crescendo anche, no, come autore. Ho detto, ma sì, ma hai ragione, allora dammi qualcosa di recente. Ha mandato due tavole che sono la fine del mondo, sono bellissime, e siamo anche felici di esporle. E poi anche autori giovani, autori recenti, autori che stanno pubblicando adesso, quindi a parte i non più giovanissimi, ma che però sono comunque oggi ancora sulla cresta dell'onda, anzi sono nel pieno della maturità della loro produzione, tipo Claudio Villa di Tex, e gli abbiamo chiesto non una cosa a caso o semplicemente le copertine, perché ci interessava il fumetto proprio in quanto tale, ma gli abbiamo chiesto sì la copertina del suo Texone, ma anche le tavole di fumetto interne, che sono stupende. E fino a, appunto, autori di oggi, quindi c'è Zero Calcare, quindi c'è Ivan Manupelli, ci sono autori che indicano anche nuovi modi di fare fumetto e di raccontare fumetti, e alcuni anche quasi inediti in Italia o quasi inediti in assoluto. Quindi c'è veramente un po' di tutto, con stili grafici anche straordinari. Quindi siete soddisfatti di questo grande lavoro che avete fatto, che è durato molto a lungo? La preparazione? Sì, perché abbiamo cominciato a lavorarci già, diciamo, primavera dell'anno scorso, come idea così di mostra che volevamo fare. Quando è arrivata la conferma che avevamo vinto il bando del Ministero, abbiamo potuto anche lanciarci, per esempio appunto in questi allestimenti un po' più curati e più ricchi, e non abbiamo avuto certi freni che normalmente purtroppo si hanno per motivi economici, organizzativi, eccetera. Quindi abbiamo modificato, sviluppato, ampliato, e beh, quando abbiamo visto la mostra finita, noi stessi eravamo colpiti dall'effetto finale. Ecco. Siete riusciti a produrre un catalogo? No, un catalogo era impossibile, perché alcuni materiali sono arrivati proprio il giorno prima, e l'allestimento stesso e tutto, fare il catalogo diventava pura. E poi un vero catalogo voleva dire, in realtà raccontare, beh, noi raccontiamo anche qualcosa in più di quel che si vede, tra l'altro, perché c'è anche una web app che è stata elaborata con la Global, è una web app che permette di approfondire davanti un po' tutto quello che si vede. Sì. Cioè ci sono delle storie che vengono raccontate attraverso il telefonino, l'auricolare, eccetera, si sentono e si possono vedere cose oltre quelle che sono esposte, quindi è ancora più grande di quello che si vede. Sarebbe stato riduttivo, insomma. Molto riduttivo. E poi comunque noi mettiamo fuori tre tavole di Iacovitti, sì, ma Iacovitti meriterebbe da solo una mostra, ma molto di più. di Molino abbiamo messo fuori per esempio il tavolo di fumetti degli anni 30, ma anche una tavola per esempio bellissima del Grand Hotel, perché faceva anche storie di Grand Hotel, per l'epoca si venivano disegnate, non erano fotografie, e sono delle meraviglie. Ovviamente una tavola di questo, una tavola di quell'altro, raccontare tutto questo, raccontare la storia editoriale, perché c'è anche la storia editoriale dei vari editori, del Duca per esempio, che si sono quasi dimenticati tutti in qualche modo, ma è stato quello di Monello Intrepido, eccetera, grande editore in Italia e in Francia, con una storia straordinaria alle spalle, e beh, solo quello è un'altra storia che andrebbe raccontata molto ampiamente. Però ecco, volevamo soltanto dare l'idea con questi assaggi, con queste piccole cose messe qua e là, con Strips, la rivista, prima rivista satirica fatta da donne per le donne negli anni 70, ecco, queste cose vogliono essere tutte delle piccole finestre, c'è stata anche questa cosa. Volete saperne di più? Parliamone. Faremo altre mostre, parleremo con questi autori, parleremo di queste cose, le faremo vedere, faremo libri, cataloghi, qualsiasi cosa, ma intanto una visione d'insieme che fino ad oggi è sempre mancata. Bene, Luigi Mora, ci dai alcune date per poter venire a vedere la mostra? Sì, dunque la mostra è aperta il 6 novembre e avevamo previsto di chiuderla il 27 febbraio, visto i problemi di spostamenti e tutta la pandemia, eccetera, eccetera, l'abbiamo prorogata almeno a tutto marzo, probabilmente i primi giorni di aprile, insomma. Stiamo definendo l'ultima data anche sulla base di quello che succede in questi giorni, ecco. E anche per consentire alle scuole di venire, perché alcune scuole hanno dovuto annullare visite già programmate, laboratori già programmati, purtroppo, però hanno detto non è proprio annullato, spostiamolo un pochino più avanti, cerchiamo di venire in febbraio, cerchiamo di venire in marzo, e quindi dare anche loro la possibilità di poterle vedere, insomma. Dopo questa visita virtuale al Museo UO di Milano con la sua mostra Il fumetto italiano, veniamo invece a ragionare sulle favole, ma queste fiabe viste con un'ottica diversa, quella che sortisce dalla chiacchierata tra Caterina Bombarda di Edo Radio e Antonella Cortese, linguista da sempre legata a attività anche didattiche, che appunto ci restituiscono un'idea della fiaba un po' diversa da quella edulcorata di Maniera. Ascoltiamo. Antonella, siamo con te, stavolta è il tuo turno, parliamo di fiabe. Sì, parliamo di fiabe, e parliamo di fiabe perché ho letto Arianna di Genova, giornalista, scrittrice e critico d'arte, che ha fatto una riflessione molto interessante. Ascolta bene, Caterina. Abbandono di minore con l'inganno, quando non si arriva direttamente al tentativo di assassinio. Gran numero di morti atroci in giovane età per malattia o addirittura per parto. Solitudini, ostacoli sovrumani di fronte a sé. Ma non ti sembra un articolo di cronaca? Effettivamente. E invece no. E invece sono le ricette aspre che impastano la maggior parte delle fiabe e delle leggende, le stesse che hanno costellato un po' le infanzie del mondo. A volte poi personaggi generosi e buoni, come spesso succede, ma anche se vincenti poi alla fine del racconto, sfoggiano personalità sbiadite, poco interessanti, poco attrattive, facendo poi propendere per i cattivi. E le fiabe, sostiene infatti Maria Tatar, che è una studiosa di folklore, miti e letteratura tedesca, ci incantano, soprattutto perché sembra che prendano sempre la strada sbagliata. Quindi siamo attratti sempre un po' da cose oscure noi, no? Però mi viene una domanda, perché una volta queste fiabe che erano dedicate a un pubblico adulto oppure misto che venivano tramandate oralmente, ora invece sono diventate patrimonio dell'infanzia? Ci sono libri di fiabe, Fratelli Grimm, tutto dedicato all'infanzia. Perché questo passaggio? Allora, come dicevi tu, le fiabe facevano parte di una tradizione di narrazione orale inizialmente ed erano raccontate per ravvivare un po' le faccende domestiche e ingannare la ripetitività nelle ore serali. Quindi insomma erano di supporto, erano feroci, melodrammatiche, acide, piene di avventura, hanno intrattenuto intere generazioni davanti ai fornelli magari o mentre si facevano faccende domestiche, illuminando le menti e alleggerendo un po' i compiti. Poi dal 600 furono trascritte e gradualmente quei racconti del patrimonio popolare entrarono a far parte della cultura letteraria dell'infanzia e dal XVII secolo in poi alcuni ricercatori hanno raccolto e riadattato le fiabe per i bambini, aggiungendo anche una dimensione morale, collezioni un po' sui pericoli insiti nella disobbedienza, curiosità o deviazioni dalla retta via. Infatti, diciamo, la virtù viene premiata e il vizio viene punito. C'è da dire, adesso provo ad attingere alle fiabe che conosco, che alla fine girano sempre attorno al perno familiare, no? Rapporti di famiglia, giusto? Sì, però si tratta spesso di una famiglia iperdisfunzionale, più allargata di quella della vita vera e anche molto innaturale. Oggi il conflitto madre-figlia alimentato dal successo del modello Disney e della fissazione su quella particolare rivalità è al centro della scena. E come vengono gestiti i dissapori generazionali che ruotano su una serie di questioni che vanno dalla bellezza all'invecchiamento fino all'empatia e alla giustizia? Usiamo quella particolare storia per risolvere conflitti etici, dimenticando un repertorio più antico che invece affrontava apertamente le contrapposizioni padre-figlio, padre-figlia e madre-figlio. Ma leggevo che Maria Tatar, questa commentatrice di storie del folklore, sceglie proprio Biancaneve, la famosissima fiaba Biancaneve, come archetipo della rivalità tra due donne, che sono la Matrigna e appunto Biancaneve, che hanno anche due età, due bellezze completamente diverse. Eppure la regina ha un fascino che attrae molto di più la nostra immaginazione rispetto a quello di Biancaneve, per esempio, che è una fanciulla giovane. Sì, che è una fanciulla giovane e sembra anche scialba, se ci ricordiamo proprio il cartone animato di Walt Disney, cioè, ce la rappresentano un po' così, mentre vuoi mettere la Matrigna quanto sia interessante, attraente e sensuale. Beh, le potenti figure femminili delle fiabe, nonostante la loro brutalità, o forse proprio per questo motivo, hanno sempre catturato la nostra attenzione. Il loro carisma contrasta con l'innocenza, a volte inconsistente, della generazione più giovane. Con voci roche, costumi glamour e una presenza fisica imponente diventano seducenti motori della trama, ricordandoci le sfide della sopravvivenza in un mondo in cui la doppiezza fa parte della condizione umana. Come si fa a superare in astuzia il male nella sua forma umana più spaventosa? Una donna madre che è diventata predatrice anziché figura che protegge.